Che se non usi le tue forze, che se il mondo se ne accorge, di sfare le valigie non ti aiuterà. La vita mi marciata in gola, tisce mancia cop. Gli sfogo con l'hip hop, a resistenza e robocop. Pizze tra bocchette, a morto non t'aspetto. Futuro non è perfetto, mo t'appezzo con una top. Spezzo sti rapporti, l'Italia non è morta. Critica chi so fa rob e no chi fa un aborto. Accia corro con ma volta, per essere travolto. Mezzo a chi t'abbraccio sulla si so parli soldo. Gli adaffa mo, o voto nu vorong. Fate sullo fumo con ma all'interno in un bong. Va spira e povo voto fora, forse va aspettamo ancora. Ma nu film bianco e nero, nu può diventare colore. La bandiera c'è rimasta sullo verde. E una speranza che speramo non si perde. Spero che a New York mi faccio sentire come chiacchiere. Che oggi fate un troppo parlamento. La speranza sarà l'ultima che morirà. Peccato che purtroppo questa non ti servirà. Che se non usi le tue forze, che se il mondo se ne accorge, di sfare le valigie non ti aiuterà. La speranza sarà l'ultima che morirà. Peccato che purtroppo questa non ti servirà. Che se non usi le tue forze, che se il mondo se ne accorge, di sfare le valigie non ti aiuterà. Racconto brutte storie, azzacca, film horror. Questi troie si è perso o senza l'amore. Politica che femmin, è un libro di moravore. Figlio nostro tremano, io cora accenda. Allora killer la famiglia, che batte troppo forte. Porre si nessuno s'arrapiglia e cerca short. Questa crisi che ci sai, non mi voglio adattare. Niente povertà, voglio volare con malaerio. Retricolore, da sta nazione, a dojo nation. Sulle canzoni, bacca veloce con movimento, perché stu paese cade, levo pure dienta bocca, fine mese, ma sta canzone non è una critica contro la politica, ma è una speranza, per chi ha vienanza. Spero sulla caccia faccia, in un marrello, perché che se la voce raggiunge. La speranza sarà l'ultima che morirà. Peccato che purtroppo questa non ti servirà. Che se non usi le tue forze, che se il mondo se ne accorge, di sfare le valigie non ti aiuterà. La speranza sarà l'ultima che morirà. Peccato che purtroppo questa non ti servirà. Che se non usi le tue forze, che se il mondo se ne accorge, di sfare le valigie non ti aiuterà.